Mi dicen que soy de centro. Un centro radical. Demócrata. Tienes que acercar mucho al micro, ¿vale? Vale, ahora creo que empieza presentando, sí, ¿no? Y yo hago de traducción. Vale, pues entonces, tienes que poner muy cerca para que se te vea. No bien. Puedo tener en la mano. Sí, claro. Vale, pero ya, ¿no? Cuando estoy en todo el mundo. Tú empiezas, ¿no? Hola. Bueno, pues vamos a empezar ya con la charla, la primera charla de hoy. Esta charla la van a impartir 7 compañeros de Sicilia, que están, vamos, militan en el movimiento No MOS. MOS quiere decir Mobile User Objective System, en sus siglas en inglés, y básicamente es una red de satélites geosincronizados que se están desarrollando por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta red de satélites sirve para controlar bases militares estadounidenses, dirigir drones, que son los aviones no tripulados que pueden lanzar misiles, submarinos y demás armamento militar. Existen en la actualidad 3 bases del MOS por el mundo, una en Virginia, en Estados Unidos, otra en Hawái y otra en Australia, y ahora se está construyendo la 4ª base de MOS en Sicilia, concretamente creo que cerca de un pueblo llamado Niscemi, en la base, cerca de la base militar de Sigonella. Y bueno, pues desde que se anunció la construcción en el año 2007 de esta base, ha habido una oposición a la construcción de la misma, por varias razones, ¿no? Gente que protestaba por la hegemonía militar de Estados Unidos, gente que se quejaba de los riesgos sanitarios que supone construir una base con estas frecuencias de alta intensidad cerca de poblaciones, y gente también que quería denunciar la catástrofe ecológica que esto supone. Entonces, estos compañeros que participan en estas luchas vienen a exponernos sus perspectivas y experiencias sobre las mismas, y la charla pues básicamente se va a dividir en 2 partes, ¿no? Una primera, de explicar un poco en qué consiste la red MOS. Y luego ya la parte más interesante, que es la que da el título a la charla de hoy, que es la de una resistencia contra el control hegemónico y por la liberación de la Tierra. Entonces, pues ya van a empezar ellos, les vamos a ceder la palabra. Simplemente antes de empezar, recordaros que, bueno, pues que aquí estamos mucha gente, no se puede fumar, guardar silencio. Y también, por favor, a la hora de entrar en la sala, tener cuidado con la puerta porque pega unos portazos increíbles. Esta charla también avisaros que está siendo grabada y los portazos además se oyen en la grabación. Los móviles en silencio, me dicen ahí también, por no andar jodiendo. Y creo que no tengo que decir nada más. Así que bueno, sin más, pues ya les cedo la palabra a ellos. Ciao a tutte e a tutti, sono Edoardo e vengo dalla Sicilia, proprio da Niscemi, dove si sta completando il 4º terminale terrestre di questo ecomostro, quindi di questo strumento a onde elettromagnetiche che serve per produrre la guerra. Niscemi... Ah, ok. Io voglio fare la traduzione. Pues hola a todas y todos. Eduardo está diciendo, bueno, que venimos de Sicilia y de Niscemi, que es el lugar donde se está construyendo este 4º sistema terrestre estacional de ondas electromagnéticas, que es la base del MUOS y de las 46 antenas que ya están construidas en Niscemi. Bueno, yo... Volevo fare una premessa, che è quella di si deve sapere che Niscemi è una cittadina che politicamente non è mai stata influenzata, o meglio, non ha mai preso parte in una lotta come questa sull'antimilitarismo e la difesa della terra. Niscemi è un piccolo pueblo e è una realtà che non ha sido toccata da alcun movimento antimilitarista o in difesa della terra. Niscemi è il pueblo dove sta passando tutto questo. Adesso facciamo un piccolo salto indietro. Il 10 luglio del 1944, quando gli USA, tramite alleanze segrete con la mafia locale siciliana, scende a dei compromessi per lo sbarco in Sicilia durante quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale. È da lì che iniziano tutte le trattative che fino ad oggi hanno permesso la nuova conquista della Sicilia come terra di guerra. Haciendo un paso atrás, podemos decir que todo eso empieza el 19 de julio de 1945, cuando los americanos desembarcan en Sicilia, estamos en la Segunda Guerra Mundial, acordándose con la mafia local siciliana y asegurándose un desembarque totalmente tranquilo. Que inaugura el periodo de guerra y de conquista a partir de Sicilia por parte de los estadounidenses. Tutte le culture e i popoli che sono passati dalla Sicilia hanno lasciato qualcosa di positivo nella cultura, quindi, che è stata quella siciliana. Gli americani ci stanno lasciando soltanto onde elettromagnetiche, armi nucleari e distruzione. Todos los pueblos que han pasado por Sicilia, todas las culturas han dejado algo positivo en lo que ahora es nuestra historia. Pero no podemos decir lo mismo por los estadounidenses, que están dejando solo ondas electromagnéticas, armas nucleares y destrucción. Quindi dagli anni 50 a ora, da quando i patti bilaterali si sono realizzati in Italia, la Sicilia è stata dichiarata obiettivo sensibile perché è strategicamente a livello geografico collocata in un sistema che può servire per la guerra, e a livello strategico è molto importante. Quindi la nuova potenza, cioè l'America, l'Occidente, è molto interessata a questo, e da questo parte tutta la stagione che adesso vi racconterò. Desde los pactos bilaterales de los años 50, Sicilia, siendo una isla en el centro del Mediterráneo, siempre ha sido identificado como un punto muy estratégico para el control y para los ataques hacia los países del Norte África, del Medio Oriente, o sea, de todo lo que asoma al Mediterráneo. Negli anni Ottanta, durante la Guerra Fredda, c'è stata una grande mobilitazione internazionale a Comiso per la distruzione e la chiusura della base di Comiso come armamento nucleare dei missili cruiser. En los años 80 ya hubo una movilización antimilitarista contra la base de Comiso. Fue una movilización muy gorda contra los cruisers, un tipo de misiles nucleares de guerra, obviamente. Y que llevó al cierre de la base. O sea, la base al final se cerró, ¿no? Que al final estaba chiusa la base. Sí, la base de Comiso alla fine. In quel periodo gli USA iniziano un altro progetto, proprio parallelamente a quello che era il progetto della guerra fredda, quindi del nucleare. Loro investono nella comunicazione e nella guerra fatta dalle macchine, quindi capiscono che in quel periodo era molto necessario per loro sicuramente prendersi le zone come, e fare guerra nelle zone come l'Iraq o il Kuwait, perché gli interessava a livello geopolitico le risorse minerarie che ci sono in questi posti. Quindi hanno scelto la Sicilia ancora una volta perché è vicina a questi posti e possono controllare da lì le guerre che sono partite dalla prima guerra del Golfo in Iraq a Saddam Hussein, quindi, no? Estamos en Guerra Fría, ya en este periodo los Estados Unidos empiezan o siguen con el proyecto de conquista y de control también de los recursos. Y Sicilia llega a ser un punto muy importante también para la primera guerra del Golfo, la primera guerra en Irak, y de ahí en adelante siempre vendrá utilizada como una base, un punto muy importante para la conquista desde la guerra del Golfo para adelante, todas las guerras que han sido llevadas a cabo hasta hoy en día. E quindi il sito militare di Niscemi diventa il sito di comunicazione, quindi di supporto alla base che era stata completata proprio in quegli anni a Sigonella, ed è una base militare completa di anfibi, quindi mezzi di terra e mezzi semoventi e soprattutto avionautici. Quindi dagli anni 80 ora si sono visti transitare dai B-52 ai cargo, quindi i droni, gli ultimi arrivati per l'alta tecnologia americana di sperimentazione sul campo di guerra e l'automatizzazione sono appunto i droni. La base di Niscemi es el supporto, digamos, la base que sirve a las comunicaciones de todos los armamentos de tierra y sobre todo aeronáuticos que parten de Sigonella, que es otra base militar americana, bueno, es de la OTAN, ¿no? Es de la NATO, Sigonella. OTAN americana. Della base americana dove si encuentran tutti i dispositivi aeronautici che hanno visto le varie evoluzioni dello B-52 hasta los drones che sono los aviones in pilota, sono aviones di guerra, di attacco, che diciamo sigue nella linea di automatizzazione della guerra in questa visione di fare una guerra che sempre che cada vez más venga llevada a cabo por las máquinas, ¿no? De una forma cada vez más automatica sin que haya personas. Quindi gli USA hanno queste due basi importantissime in Sicilia che sono Sigonella e Niscemi. Quindi significa che loro hanno avuto interesse ad automatizzare la guerra sin dall'inizio. Vado a frasi brevi così tu capisci. Questo rientra in un progetto mondiale per l'automatizzazione della guerra che parte proprio dalla prima messa in funzione del MUOS fino al 2048, quando loro prevedono che il sistema sarà totalmente, il sistema della guerra quindi sarà totalmente automatizzato, cioè affidato alle macchine al 100%. Entonces Niscemi y Sigonella llegan a ser dos bases super importantes en este proyecto de dominación mundial que ellos prevén llegará en 2048 a ser totalmente automatizado, totalmente llevado por máquinas, computadoras y esta es una declaración del Pentágono, ¿no? Ellos prevén que en 2048 ya la guerra será totalmente automatizada. Quindi i droni vengono usati dalla prima guerra in Iraq all'ultima quella in Libia e saranno usate per le prossime, e quindi il popolo siciliano con complice lo Stato italiano siamo stati corresponsabili di tutte le vittime innocenti tra la popolazione di tutti questi popoli che si sono succeduti nella guerra. Siamo anche noi corresponsabili perché le generazioni passate non hanno manifestato il proprio dissenso o ne hanno cercato di distruggere questi strumenti di morte. Entonces, claro, los drones han sido utilizados desde la guerra in Iraq hasta la guerra in Libia y nosotras pues nos sentimos un poco corresponsables de todo eso, teniendo estas bases de guerra allá, y sentimos un poco esta responsabilidad de intentar romper con eso y intentar hacer que eso no siga así, considerado también que las generaciones anteriores no mucho han llevado adelante esta lucha para evitar que esto llegase a ser así. Entonces. Quindi adesso si inizia a parlare un po' di storia del movimento Nomus, come è nato e perché, e le ragioni per cui si sta andando avanti così in questa lotta. Empezamo ora con la storia del movimento Nomus, come ha sido che noi stiamo organizzando. Allora, tutto ha inizio nel 2008 quando un giornalista siciliano, Antonio Mazzeo, inizia a fare delle dichiarazioni molto interessanti appunto sulle strategie geopolitiche e nella fattispecie in questo caso di Niscemi e Sigonella. Tutto empieza nel 2008 quando un periodista siciliano, Antonio Mazzeo, empieza a pubblicare una informazione sopra il plan geopolitico strategico degli Stati Uniti, sì, il ruolo della base di Niscemi, che già veremo che non è esattamente una base militare, però lo vamo rassumendo sì, lo spieghiamo. E parla anche di come, ancora una volta, per l'ennesima volta, la mafia locale, quindi la mafia siciliana e italiana, ha interagito con gli interessi geopolitici degli USA. E pone in evidenza también lo vínculo che une la mafia italiana, in speciale la siciliana, con gli interessi militari statunitensi, lo qual non è nuovo. Ecco, qui vediamo due ditte importantissime che collaborano per la realizzazione di questo progetto. Una è la Comina per il trasporto dell'autogru e l'altra è l'SRL Piazza di Niscemi per il calcestruzzo e il cemento. E entonces aquí nos encontramos con dos empresas che sono la Comina, che si incarica dello smedio spesato delle gruas che tienen che montare le parabole del MUOS, e altra impresa locale di Niscemi che si chiama Piazza. Ed entrambi, e oltre a queste due ce ne sono un'altra lista di ditte che sono implicate, soprattutto la Comina e Piazza, sono implicati in affari di mafia per quanto riguarda le investigazioni dei PM. E che stanno, le due, in speciale Piazza e Comina, stanno implicate nelle investigazioni. Están investigadas por mafia, por negocios mafiosos. En realidad pertenecen, las dos pertenecen a familias mafiosas muy conocidas, o sea que no es, o son estrechamente vinculadas a familias mafiosas muy conocidas en Sicilia. En realidad no sería ninguna novedad, no harían falta tantas investigaciones, pero. Quindi dal 2008 inizia. Che solo dice io, che l'ultimo l'ho detto io. Allora, quindi nel 2008 iniziano a susseguirsi tutte le assemblee che hanno portato il movimento a crescere sempre di più, quindi alle unioni, alle riunioni così a livello individuale, anche soggettivo da parte di persone del luogo. Che a poco a poco si sono allargate nel territorio creando dei comitati di base, fino al punto di arrivare al coordinamento regionale. E entonces así que empieza las individualidades de Niscemi empiezan a assemblearse, empiezan a juntarse para ir hablando de lo que está pasando y se empiezan a organizar primero la asamblea local y luego unos comités empiezan a nacer en toda la Sicilia hasta el coordinamiento regional de comités. E quindi per me oggi è veramente una buona occasione per parlare di queste cose ed è un'emozione, provo un'emozione molto forte perché poter parlare di questo all'esterno della Sicilia mi sembra veramente un sogno perché 4 anni fa, 5 anni fa non si pensava che una cittadina come Niscemi che politicamente è stata sempre devastata dall'associazionismo mafioso e massonico, oggi alcuni individui che crescendo con la lotta proprio non per puro spirito di ribellione ma per necessità in questo caso di imporsi ai poteri della guerra si possa essere arrivati a questo punto a far sì che delle compagne e dei compagni si ritrovino in Spagna e anche sicuramente prossimamente nel resto del mondo per parlare di un problema così grave che comprende l'interesse di tutto il pianeta, di tutta la Terra. Y entonces para él es como súper emocionante estar acá porque hace 4 o 5 años no se podía imaginar mínimamente que desde una realidad como Niscemi, que siempre ha sido políticamente muy devastada por el poder mafioso y masónico, se pudiese llegar hoy a estar acá y hablar entre compañeras y compañeros ahora en el Estado español y bueno, a ver, a dónde iremos. Quindi la lotta no MUS è una lotta che parte dal basso, no? Dall'auto-organizzazione, dall'autodisciplinarsi nelle condizioni e quindi tramite l'esperienza sul campo, sulla lotta no MUS che si è continuate a crescere, tramite appunto i tour, per esempio, come questo, e di questo me ne parlerà un nostro compagno che abita a Pisa. Cosa significa, che importanza ha e che cosa significa incontrarsi di persona per organizzare le lotte? E quindi questo comporta una crescita sicuramente positiva per le società e per i popoli comunque. El movimiento Nomus es un movimiento que nace desde abajo, que se autoorganiza y seguimos creciendo día tras día, ¿no? En lo que es nuestro proceso y también a través de estas giras que podemos ir conociendo nueva gente y nuevas experiencias. Y luego hablará otro compañero también de lo que significa la experiencia, por ejemplo, los comités de Pisa y de otros comités que se van creando. No, questo sì, questo è in generale. Comunque questo non significa che nel movimento Nomus non ci sono infiltrazioni di politicanti che cercano di accaparrare forze e quindi di acquistare potere. Questo non significa che dentro del movimento non haya también personalità politicanti che dentro del movimento intentano también come recortarsi cacciatori di potere. Infatti tutte le azioni concrete di distruzione, di danneggiamento che si sono fatte sono partite appunto dal basso, da compagni e compagni che si trovano quotidianamente a vivere un posto che è nato l'anno scorso, pressappoco in questo periodo, il 23 ottobre, il presidio. Adesso, diciamo, tutte le azioni dirette e di sabotaggio che hanno salito da compagnere e compagni che si incontrano a vivere nello quotidiano. O casi, perché dipende. È un sito che si chiama Il Presidio, che è dove presidiamo la base e che hace poquito cumple un anno. Allora adesso il movimento quest'anno, appunto, da quando abbiamo deciso di bloccare fisicamente questo strumento della morte, per esempio impedendo l'arrivo delle autogru per sollevare le parabole, ha dato la possibilità di far innalzare il livello di scontro e di lotta, quindi di attenzione militare sul territorio. Ecco, lo Stato poi interviene con la polizia. Desde hace un año es que hemos empezado a bloquear fisicamente los trabajos en la base, porque se sigue construyendo, el muso todavía no está terminado. Y desde entonces pues hemos empezado un poco a montar el nivel de conflicto en la zona a la que el Estado obviamente ha contestado con la militarización de Nishemi, de la zona de la base y del presidio, porque el Estado no responde con la represión, claramente. Quindi il presidio è stato importante perché ha dato la possibilità di far incontrare quelle persone che a livello di militanza hanno già esperienze, persone del posto che si sono fusi tra di loro e scambiando le conoscenze e le esperienze e praticandole sulle reti, sulla base, progettando lì le cose, si è dato la possibilità di far crescere anche culturalmente una cittadina dove ancora il baronismo esiste, il feudalesimo esiste. Entonces el presidio ha sido un punto de encuentro de gente local y de gente de afuera que nos hemos encontrado y juntas hemos seguido pensando en estrategia para bloquear el MUOS y desmantelar la base siempre en Nishemi, que es una realidad donde el feudalesimo todavía existe, ¿no? El baronaje todavía existe como realidad social. Quindi questa nostra opposizione, la voce, diciamo, di tutti i Nomus è sicuramente è quella dell'antimilitarismo, perché il sito di Nishemi è un sito che è stato devastato dall'inquinamento elettromagnetico, bensì da 46 antenne ad alta, media e bassa frequenza che funzionano dal 91. E ancora non siamo arrivati al MUOS. e queste antenne a bassa frequenza, le onde elettromagnetiche, quindi quasi le microonde a bassa frequenza, le onde elettromagnetiche a bassa frequenza, sono quelle che provocano a livello biologico i mali più terribili, come per esempio tumori alla tiroide, oppure leucemia infantile, poi magari ne parli tu di questo che sei della parte scientifica. E quindi la gente si è mobilitata anche in vista di questa pericolosità, e il popolo si è mobilitato quasi esclusivamente, non del tutto, perché c'è un problema ambientale e di salute. L'antimilitarismo è per supposto una vertente all'interno del movimento, però hai che considerare anche la contaminazione elettromagnetica e ambientale che sta generando questa installazione militare. Stiamo parlando in Miscemi hai 46 antenne di bassa frequenza, un po' come los microondas che stanno funzionando a pleno regime. Desde los años 90, desde el 91 exactamente que ya están funcionando, más el MUOS que se está instalando. Sí. Queste antenne hanno dato la possibilità di interagire nella guerra, come questo lo faccio più semplice. Y que la gente, la movilización local de la gente sobre todo ha sido en realidad ha sido en función de los problemas sanitarios porque estas antenas están generando muchos cánceres y problemas de leucemias, de tiroides y igual luego hablará él un poquito mejor si quiere de la parte científica. E quindi si sta facendo anche un lavoro di sensibilizzazione contro il militarismo, perché è veramente importante il tema del militarismo oggi più che mai, perché è lo strumento di dominio dell'economia e quindi del benessere. E quindi è un'occasione anche per levare a cabo un lavoro di sensibilizzazione al problema della militarizzazione, del militarismo, no? Pochi dopo poco, sobre la onda de esta movilización, pues hacer que también la gente mire un poco más allá de su propia salud, ¿no? ¿No? Sí. Porque es como que es el tema que más personalmente les toca, entonces es lo que les activa más, ¿no? Entonces intentar también ampliar. Ovviamente questo loro non si rendono conto che anche se non si interessano di militarismo sono comunque complici, perché chi non si ribella è ovviamente anche causa del sistema, no? Perché igual non se dan cuenta, no? Che más allá de que les toque personalmente o no, si no te rebellas, de alguna forma eres cómplice, no? De lo que está ocurriendo. Ora, il MUOS è uno strumento tecnologicamente molto avanzato, perché gli USA, gli americani hanno dovuto andare a scoprire quest'altra tecnologia, perché gli altri eserciti hanno comunque in dotazione ormai strumenti come le antenne che ci sono state finora. Quindi per loro significa fare un passo avanti per quanto riguarda la militarizzazione e la tecnologia che viene usata nel campo militare. El MUOS le sirve ora all'esercito nordamericano perché ¿cómo se dice? En esta cosa, como corriendo hacia la tecnología, ¿no? Como los avances tecnológicos, pues la tecnología de las antenas, de las 46 antenas, ya es una tecnología que más o menos está compartida por varios países y varias potencias mundiales. Entonces, lo que les interesa ahora es como ir más adelante y tener un avance tecnológico militar con respecto a las anteriores dotaciones militares. Entonces aquí viene a inserirse el MUOS y la construcción del MUOS. È per questo motivo che loro non badano al fatto che stanno costruendo uno strumento del genere in un punto che è molto vicino a un paese, a un centro abitato e anche a un sito di interesse comunitario che è la Sughereta, perché poi dici la storia delle querce. Porque y por eso no les interesa estar construyendo, ni siquiera les interesa estar construyendo este sitio militar tan cerca de un pueblo y adentro de un centro, de una reserva natural de interés comunitario, que es de Alcornoque, que es una un bosque de Alcornoque. Ecco, a livello poi giuridico, a livello di leggi per esempio, lo Stato italiano è capace di far sì di modificare le leggi? Per esempio c'è stato un decreto che è stato modificato che dice che in pratica il sistema MUOS, dato che è un sistema che interessa a livello, è un sito di interesse politico e militare, può avallare la legge di impatto ambientale e di rischio di cancro tumorale tra la gente. Quindi questo fa sì che, siccome è uno strumento militare, può andare oltre questa legge perché è di interesse militare. A livello legale l'Stato italiano ha deciso che, essendo un sito di interesse militare, pues può ir más allá de la regolamentazione medioambientale e sanitaria, o sea, de tutela della salute che esiste in Italia. O sea, come che los intereses militares van más allá de todo. Quindi la sicurezza dei non MUOS, a dire che il MUOS fa male a livello ecologico, la conferma già solo il fatto non che ci sono degli scienziati che si esprimono a nostro favore, ma il fatto che gli americani stessi, tramite il colonnello dell'aeronautica militare di Sigonella, si è tradito con le sue stesse mani, dichiarando che il MUOS che doveva essere installato a Sigonella, dove stanno i droni, ha dichiarato in un'intervista che il MUOS doveva essere installato lì, non è stato deciso di farlo lì, cioè non hanno deciso di farlo in un altro posto perché le misure cautelari superavano il rischio e quindi potevano fare detonare le bombe site nella base di Sigonella, e hanno scelto quindi gli scemi. Il mismo coronel de un coron ah. A confirmazione della potenzialità elettromagnetica del MUOS, un coronel dell'esercito statunitense ha dichiarato che non era possibile, perché al principio il MUOS tenía che essere costruito in Sigonella, e luego se dichiarò che questo non era possibile perché le frequenze del MUOS mismos potevano hacer detonare automaticamente los explosivos y las bombas que se encuentran en Sigonella. Y entonces se decidió Niscemi, que no está muy lejos de Sigonella, pero lo suficiente. E il fatto che anche, per esempio, i militari che stanno all'interno della base del MUOS, per esempio, stanno sempre sottoterra, e quindi questo è il fatto che lì sono più sicuri, a Sigonella ci sono i militari liberi nei loro appartamenti, comunque negli ambienti militari, e anche per questo sicuramente non vogliono che il MUOS venga... fosse stato messo a Sigonella, perché ovviamente loro sanno che fa male, ma nelle dichiarazioni dei protocolli loro dichiarano delle misure fittizie, smentite poi da Massimo Curaddu e Massimo Zucchetti, che sono i due ricercatori indipendenti che si sono espressi con dei documenti scientifici molto importanti che poi sono stati usati per fare il ricorso da parte del comune di Niscemi contro la regione Sicilia. Entonces, mismo los militares que se encuentran en Niscemi casi nunca salen de las estructuras o incluso bajo tierra, y como todo otro mundo que ni siquiera conocemos, pero que está construido debajo de la base. Mientras que en Sigonella sí que circulan libremente por la base, tienen alojamientos en la base misma y entran y salen, mientras que en Niscemi no, siempre están encerrados adentro. Y también se habían declarado unas misuras cautelares que de garantía de sostenibilidad con la salud, que pero han sido sistemáticamente probado que no era así por los científicos Corradu y Zucchetti, que nos ayudan también en lo que es la parte científica, técnica, a desmontar paso por paso lo que dicen, ¿no? sus documentaciones. Ora quindi nel 2008 diciamo che è iniziata a costruirsi la lotta No Muos, poi l'anno scorso in questo periodo, proprio in autunno, abbiamo deciso, il comitato di Niscemi insieme al resto delle persone che fanno parte del movimento No Muos, di metterci diciamo non solo la faccia a livello opinionistico, perché ancora c'è il problema di lottare solo a livello opinionistico, ma di creare appunto dei posti di blocco per bloccare fisicamente l'entrata dei mezzi per la completazione del sistema MUOS. Entonces en 2008 empieza el movimiento, pero es hace un año que se decidió pasar de la opinión, digamos, o sea, dejar de ser un movimiento simplemente de opinión para empezar a bloquear físicamente lo que está consintiendo la construcción de la base. L'11 gennaio del 2013, tramite una soffiata, ora questo farà ridere, tramite una soffiata a un compagno che lavora in autogrill di Catania, abbiamo scoperto che un cliente autista della Comina, questo la conosci questa storia, la puoi raccontare tu? Ah, allora, sì, si è fermato per prendersi un caffè in un autogrill e diceva che doveva andare a Niscemi per fare un trasporto eccezionale scortato dalla polizia. Allora questo compagno che lavorava all'autogrill ha chiamato noi che eravamo al presidio, ha chiamato a Dominic, un nostro compagno, e gli ha detto che stava arrivando comunque qualcosa di scortato a Niscemi. Ecco che lì quella notte, tra il 10 e l'11 gennaio, ci siamo organizzati in modo furtivo, così molto male organizzati, perché poteva arrivare da qualsiasi posto questa gru. Entonces fue el 10 de enero del año pasado que nos llega una soplada, se dice, como un silbatazo, por parte de un compañero que trabajaba en una estación de servicio cerca de Catania, que se encuentra con un chofer de camión que les cuenta que está escoltando medio pesado, así un camión que va a ser escolta, un camión transportador que escoltado por la policía y que van a llegar a Niscemi. No se sabe bien lo que va a llegar, se intuye porque no porque se está esperando la grúa, ¿no? Y entonces así de forma totalmente improvvisata, pues en la noche entre el 10 y el 11 se baja a la calle. Quindi quella notte giovani di Niscemi, giovani di fuori e persone del posto comunque che si trovavano hanno iniziato a fare chiamate un po' in tutta la Sicilia per venire le forze là, e quindi sono creati dei presidi notturni, alcune sono state fermate, alcune altre no, e nel punto dove si sono incontrati con la gru c'è stata la prima diciamo carica della polizia, e che da quel momento in poi abbiamo capito che solo così possiamo effettivamente produrre qualcosa contro questo sistema. Esta noche jóvenes de Niscemi y de afuera, sí, más gente, se empezaron a llamar a todas las compañeras y los compañeros por Sicilia, invitándole a venir para bloquear los transportes. Y fue la primera vez que nos juntamos todas en la calle y empezamos a bloquear en varios puntos, a veces consiguiéndolo, a veces no, hasta encontrarnos con la grúa. Y ahí fue la primera carga policial, fueron los primeros enfrentamientos, pero fue la primera vez también que nos dimos cuenta que, bueno, lo que queríamos era empezar a hacer eso, ¿no? A bloquear realmente los trabajos, las obras. Da quel momento in poi, tante realtà militanti di diverse aree politiche della Sicilia innanzitutto, e poi successivamente piano piano verso il nord Italia, si sono mobilitate contattandoci e arrecando militanze, cioè portando persone, e quindi in questo modo si è aumentato diciamo il numero di sabotaggi fatti alla base, con per esempio la prima volta si inizia con il semplice taglio delle reti facendo esplodere alcuni mortaretti e poi facendo danni più seri come la fibra ottica che serve, e su questo poi ne parliamo della fibra ottica, che prima dici questo e poi dico quello della fibra ottica. Sì. Y fue así que poquito a poco, primero a nivel regional y luego cada vez más a nivel nacional, empiezan a llegar compañeras y compañeros y se empiezan a poner en marcha también los pequeños sabotajes que han empezado con los cortes de las redes que persintan la base militar hasta el corte de la fibra óptica. Che ora spiegheremo a che serve. Quindi nel 2009, quando ancora eravamo in pochissimi nel comitato di Niscemi, alcuni militanti di Niscemi, compreso io, ci accorgiamo che stavano eseguendo dei lavori che partivano dalla base NRTF numero 8 di Niscemi verso il paese. Erano gli intagli nel manto stradale per l'installazione di un sistema di fibra ottica che consente adesso, per esempio, già in funzione, il collegamento diretto tra le forze dell'ordine, tra la base, quindi tra gli USA, e le forze dell'ordine locali, perché ovviamente la base, se viene attaccata a livello di lotta popolare, devono intervenire i militari italiani, perché è sotto la giurisdizione italiana. En 2008 nos dimos cuenta que estaban haciendo una serie de obras que partían de la base y llegaban hasta el centro del pueblo. En ese entonces todavía no se sabía, pero se fue descubriendo que estas eran las excavaciones en la ruta para montar la fibra óptica, que es un sistema que sirve a comunicar directamente la base militar con la comisaría. Porque no siendo una base militar, o sea, el sitio de instalación, o sea, literalmente sería una instalación militar. O sea, lo que persinta los 500 hectáreas. Los 500 hectáreas de la base es una base bastante grande. No es suelo americano, sigue siendo suelo italiano. Entonces ellos no pueden intervenir directamente, sino que por todo lo que pasa tienen que llamar los militares italianos, la policía italiana y que interviene. Ellos directamente no podrían intervenir. Ecco che, per esempio, appunto sul tema della proprietà di questa terra, interagisce ancora la mafia con la compravendita dei terreni, delle terre che sono state espropriate ai contadini di Niscemi, con la creazione di una società per azioni chiamata Olmo S.p.A. per la compravendita dei terreni. Que cuando fue construida la base militar, una vez más fue la mafia que creó apositamente una empresa SPA una empresa SPA que fue comprando y expropiando los terrenos a los campesinos de Niscemi, porque es una realidad básicamente agrícola la de Niscemi. Para luego pasárselo a los americanos con Quindi gli acuerdos. Fa una concessione d'uso di 90 anni. Con la società si chiamava la Olmo S.p.A. Olmo significa in niscemese una parola molto importante, perché è il nome di Niscemi, Nasham in arabo significa olmo, e quel posto era pieno di olmi, solo che adesso è pieno di antenne. Se llama Olmo porque Olmo es una palabra muy importante porque para Niscemi, en realidad, porque la misma palabra Niscemi viene del árabe y significa Olmo, porque era una zona todos de Olmos que ahora no existen más, sino que están las antenas. E quindi l'unico modo veramente per vincere è distruggere quella base fisicamente, con l'azione diretta, auto-organizzata, senza badare a tutte le realtà che si esprimono, giustamente perché hanno il diritto di farlo, a livello solo d'opinioni. Per esempio il sabotaggio della fibra ottica ha prodotto 2 settimane di interruzione della comunicazione diretta tra la base e la polizia. E questo l'intervento di una ditta per la riparazione. Per esempio, altre azioni dirette autorizzate come l'entrata del 9 agosto ha dato la possibilità di far fare l'esperienza di invasione di un'installazione militare non solo alle persone militanti, alle compagne e compagni che venivano da fuori o dal territorio, ma anche a parte della popolazione che ha preso a questa invasione. L'invasione sarà una cosa che dovrà essere ripetuta al fine di un'occupazione e di smantellamento. Por eso apostamos para la acción directa, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, acciones como la del sabotaje de la fibra óptica consintieron por 2 semanas la incomunicación entre policía y base militar, hasta llegar otras acciones hasta llegar al 9 de agosto, en que invadimos la base y se consiguió que la invasión de la base militar no fuese llevada a cabo solo por las militantes y los militantes, sino que fuese llevada a cabo por 2.000 personas que entramos en la base. Y esperamos volver a repetir esta vez no solo para entrar y hacer que mucha gente pueda probar la sensación que es posible, ¿no? Que invadir la base y probar la experiencia de la invasión de la base, sino también la ocupación y el desmantelamiento. Sí, el desmantelamiento. El rimboschimento successivo. ¿No? Y volver a hacer que ahí vuelva el bosque, que es nuestro objetivo final. A tempi come siamo? Sono continuo dicendo altre cose. A tempi come siamo? Raga. Sì, allora concludo dicendo che quest'estate è stata un'estate calda, molto calda, perché per esempio le esperienze che si sono fatte insieme al presidio ha dato la possibilità di incontrarsi tutti insieme nell'ottica della distruzione del potere dei padroni della guerra. E questo farà sì che veramente la lotta possa continuare a crescere dal basso, e sicuramente quelli puliti in questa storia del MUOS rinnegheranno sempre di più, come abbiamo fatto finora, i poteri occulti che cercano di insinuarsi nei movimenti, no? Che sono quelli appunto dei coordinamenti, dei giochi politici di partito, di risonanza storica della politica italiana, che cercano sempre più di dominare a livello anche mediatico, ma a noi non ci interessa solo il livello mediatico, cioè, o meglio, il primo scopo è quello di invadere quella base per occuparla, se no si rischia solo di ingappare in questi maneggiamenti poi che concludono soltanto con la comunicazione e il restare dietro uno schermo a mettere mi piace su Facebook, anziché produrre veramente quella lotta che deve essere volta al sabotaggio, alla distruzione, per la realizzazione di un futuro migliore e fatto di libertà. Entonces, desde este verano ha sido un verano muy muy intenso para nosotras, donde nos hemos encontrado muchas para pensar juntas, ¿no? Cómo seguir destruyendo los poderosos, ¿no? Todos los sistemas que construyen los poderosos de este planeta. Y y que siempre intentaremos de hacerlo desde abajo, evitando también de que el movimiento se comprometa con varios intentos de politiqueo y de manipulación y de creación de centros de poderes adentro del movimiento por parte de realidades más que vienen de experiencias más partidicas y sindicales de larga memoria en la política italiana, ¿no? Porque queremos llevar a cabo una lucha hecha por la para la libertad. Okay. Allora, ciao. La scorsa primavera In seguito, insomma, alla notte del 10 e del 11 gennaio, quando il livello della repressione da parte della polizia è aumentato, si è iniziata a sentire l'esigenza di estendere sempre più questa lotta, fino ad arrivare in primavera, in cui poi a livello nazionale sono nati vari comitati no MUOS. Con che scopo? Después del 10 y 11 de enero, cuando el nivel de represión también aumentó consistentemente, se empezó a sentir cada vez más la necesidad también de ampliar esta lucha y entonces de ir creando los comités afuera, cada vez más afuera de Nishimi para soportar la lucha. Perché da gennaio a... Hasta llegar a primavera. Da gennaio ad aprile noi siciliani, che compagni e compagne che studiamo fuori dalla Sicilia, continuamente ci informavamo di quello che accadeva, di come il movimento, di come una terra che non ha, da quando io sono nato almeno, non mi ricordo una lotta, non si è mai espresso in una lotta, adesso quando... Da lontano vedi che le persone con cui sei cresciuto invece subiscono questo tipo di repressione, è nata l'esigenza di mettersi, di attivarsi, no? Desde enero, diciamo, hasta la primavera, para los sicilianos y las sicilianas que no vivimos en Sicilia sino que vivimos fuera y que desde que nacimos no nos acordamos, no tenemos memoria de una lucha y una movilización como la que se está dando ahora, y escuchando que ahora gente, hasta gente con quien has crecido o no, está involucrada en la lucha y está llevando a cabo esta represión, pues es como una emoción cada vez más grande, ¿no? Una atención cada vez más grande a lo que estaba pasando y la necesidad de poder participar de alguna forma, ¿no? Aún estando lejos. Ci siamo accorti che nel territorio nazionale esistono circa 160 installazioni militari NATO, o comunque degli Stati Uniti o della NATO, per cui diventa essenziale per noi riproporre portare fuori dalla Sicilia la lotta antimilitarista e riproporre delle lotte che vengono effettuate contro queste installazioni anche fuori, anche in Toscana, dove esistono basi militari del calibro di come Sigonella, come Camp Darby parlo, che sono perfettamente integrate nella realtà, cioè accettate dalle persone del posto. Quindi l'esigenza di riprodurre lotta antimilitarista, di informare la gente, è nata così. Ora. Entonces, en Italia existen 160 instalaciones y bases militares, o americanas o de la OTAN. Y entonces un poquito se sentía la necesidad de conectar la lucha contra el MUOS con la lucha antimilitarista en general para alargar el discurso y conectarnos a un percurso antimilitarista y una lucha antimilitarista más amplia que, por ejemplo, ponga en evidencia también otras realidades militares. Por ejemplo, ellos están viviendo en Pisa. Y entonces en Toscana también hay una base militar que es Camp Darby, que es paragonable a Sigonella por importancia militar y estrategia, y a la que la gente está acostumbrada. Y entonces empezará a romper con el discurso también en estas realidades. Quindi partendo dall'informazione sui danni alla salute, perché sono le informazioni che più direttamente evidentemente colpiscono le persone. Partendo da questo tipo di informazioni abbiamo cercato sempre un contatto maggiore con la gente, proprio per creare un collegamento tra l'esistenza dei poteri militari e la nocività che questi arrecano alle popolazioni che vivono accanto a queste strutture. Entonces, hemos empezado Por el tema de la salud como primer acercamiento, porque eso es como que muchas veces es lo primero por donde consigues la atención, la escucha de la gente, para también poner en evidencia todo lo que significa, cuáles son las consecuencias sobre tu cuerpo de todas estas instalaciones militares. Il MUOS effetti devastanti sulla salute della popolazione siciliana, questo è già allarmante. In più si collocano in Sicilia in una condizione in cui, per esempio, no, la storia di Caltanissetta, che ha il registro dei tumori solo da un anno, in cui la gestione burocratica dello Stato, degli studi epidemiologici su quante persone sono ammalate di queste patologie, non esistono, non arrivano fuori dalla Sicilia. Quindi noi abbiamo iniziato a parlare di questo anche per dire c'è un numero di persone che è troppo elevato, che ha manifesta questo tipo di patologie tumorali. Queste persone è come se non hanno nome, no, questa informazione non esce dalla Sicilia, è come se quindi c'è qualcosa che blocca, e quindi ci siamo sentiti prima di tutto nei confronti della nostra gente, della nostra terra, in dovere di testimoniare la gravità di questo discorso. Entonces, claro, como el tema de la salud se inserta en una realidad como la realidad siciliana, donde la organización de lo que está pasando a nivel de estudios médicos simplemente no pasa. O sea, no existe una sistematización de los casos tumorales que se están desarrollando en las áreas cerca de las instalaciones militares, porque también a nivel estatal, como todo lo que son los servicios sanitarios están muy muy precarios en Sicilia, y pues aún menos existe un estudio real que pueda dar visibilidad a estos casos, a estas personas y a estos nombres que se están enfermando pues en la invisibilidad más total, ¿no? Questo discorso è stato portato avanti insieme all'informazione di quello che accadeva nel frattempo a livello di successione degli eventi in Sicilia, revoca della revoca, eccetera, eccetera. Portavamo queste informazioni, prendevamo le cose della salute, facevamo all'inizio incontri su come il MUOS si installa geopoliticamente a livello mondiale, per informarci noi stessi, visto che eravamo molto lontani, non potevamo prendere informazioni direttamente, e per informare contemporaneamente la gente di questi discorsi. Solo che avendo poi vissuto la mobilitazione che c'è stata ad agosto, soprattutto direttamente in Sicilia, ritornare a Pisa, insomma, in Toscana, sia per me che per lui, insomma, che abbiamo riportato questo tipo di che è stata la nostra esperienza in Sicilia. Abbiamo notato come in realtà i comitati, insieme alle altre realtà, possono riprodurre azione diretta, e questa è, diciamo, la prospettiva a cui andiamo di più, azione diretta verso queste strutture, riproponendole le stesse dinamiche di azione, come il taglio, come, vabbè, senza entrare troppo nello specifico, stesse dinamiche di azione che avvengono là, rivendicando quindi avendo la possibilità di rivendicare il tutto come non MUOS, pensando che questo possa creare una rete antimilitarista. Entonces, si al principio se fue un poco siguiendo lo que pasaba tanto a nivel político, porque hubo una serie de pasos de revocas a nivel estatal y regional, y también de lo que estaba pasando, retransmitiendo los sucesos de Niscemi afuera, también en este caso a Pisa. Después de las movilizaciones de agosto, de haberlo vivido directamente, porque tuvieron la posibilidad de venir y Y estar ahí, pues como que se sintió más la necesidad ya de reproducir también niveles de acción directa también en la realidad de donde se está viviendo, aunque no sea en Sicilia. Reivindicándolas como un muso, de todas formas, como empezando a romper con todos los muros y los silencios sobre las instalaciones militares. No? Questo tipo di discorsi. Il comitato, così come il movimento, i vari comitati rappresentano quello che è il movimento non muos in piccolo. All'interno dei comitati vi sono individui che provengono da varie realtà politiche o addirittura persone che non hanno mai avuto un'esperienza politica. Questo discorso porta nell'affrontare con un senso di appartenenza militante con queste persone a collaborare per visto che c'è questo obiettivo comune, ci spinge a collaborare insieme. È la direzione di proprio nella diversità delle varie persone, c'è chi per esempio si occupa di produrre volantini di informazione ancora, non, per esempio non ne vuole sapere dell'azione diretta, oppure c'è chi preso tra virgolette come compito quello di contattare i compagni e le compagne, perché ci siamo accorti che in effetti da qua al 2000, alla fine dell'anno probabilmente verrà finito il MUS, e in fondo crediamo che abbiamo una grossa possibilità in estate se i compagni e compagne riusciamo ad aggregarci in Sicilia, di poterci opporre davvero una volta per tutte a questa installazione. Quindi alcuni continuano a fare informazione, eccetera, eccetera, altri invece pensano che, siccome c'è poco tempo, più che comunicare con le persone, occorre aggregare le forze di compagni e compagne in direzione di... Los comités reproducen en pequeño un poco lo que pasa en Niscemi, ¿no? Y son realidades muy compuestas donde se juntan sensibilidades y orientaciones políticas distintas y cada una desde su realidad y su pensamiento pues se intenta colaborar y caminar juntas hacia el objetivo de hacer de verdad que la base desaparezca. Y claramente hay quien se dedica más a la información, hay quien razona más en términos de acción directa, hay quien razona más también en términos de crear agregación, seguir agregándonos entre compañeros y compañeras porque el problema es que probablemente en febrero, si todo sigue así, porque ahora lamentablemente es un momento un poco, eso ya lo estoy añadiendo yo, excúsame, digamos es un momento un poco de baja, no somos muchas y es un momento en que pues se necesitaría hacer que otra vez se vuelva a juntar más y más gente para realmente hacer efectivo el desmantelamiento de la base. Porque cuando se concluirá esta, la base de Niscemi, el sistema MUOS, que cuenta de 4 bases en todo el mundo, será completo. Esta es la última que falta. Entonces, como se nos hace aún más importante para nosotros, por lo menos, conseguir pararlos. Aún así, aunque se termine el MUOS en febrero, de aquí a que entre en marcha, probablemente se necesitarán otros 2 años porque tienen que coordinarse con los satélites y de todas formas nosotros pensamos que hasta que existiera la base pues existiremos nosotras también como movimiento por lo menos y nada, y entonces pues hacer que aunque se termine en febrero pues que en verano o cuando pues se pueda volver a estar ahí presentes con más presencia y más gente para hacer realmente efectivo el paro de las obras y de la base militar. Ma questo è un po' come si muove il comitato, però se si magari Penso che un po' dal discorso che ha fatto anche Edoardo, da quello che ho fatto io, non è stato chiarificato molto la questione tecnica di che cosa farà tutto l'impianto. Di che... Se... Vorrei acclarare igual la parte tecnica di a che serve il MUOS, no? Perché quando non l'abbiamo acclarato mucho antes, non so, sicuramente. Quando sarà completato, il sistema permetterà agli USA di comunicare con gli 800.000 soldati sparsi per il mondo contemporaneamente. Inoltre le antenne già attive che hanno frequenza, vanno da una, sono UHF, quindi emanano onde elettromagnetiche ad altissima frequenza e a bassissima frequenza. Entrambe le, questo, sì, delle antenne per risumergere. Le antenne già presenti invece come per esempio c'è un'antenna che è altissima, di 146 metri, è un'antenna a bassa frequenza che riesce a che serve per comunicare con i sommergibili degli Stati Uniti a distanza dal Corno d'Africa all'India, quindi ha un'importanza già assoluta. Il MUOS permetterà di sia il controllo coordinato di tutto questo tipo di forze, che vabbè, come si diceva prima, l'uso dei droni, ok, se ne risenza pilota, questo va bene. Quando sarà completato in sus quattro sbase, una in Virginia, una in las Hawaii, l'altra in Australia, mi pare, in Australia, e la ultima è stata in Niscemi, se avrà la comunicazione globale di 800.000 soldati americani in tutto il mondo, tanto le forze di aire, di terra, submarina, in tempo reale praticamente e al mismo tempo. O sea, è un sistema che potenzia moltissimo le comunicazioni militari, no? È come una bomba della comunicazione militare. Y también, por ejemplo, si ya existe en las antenas, existe son antenas de muy alta frecuencia y de muy baja frecuencia. Y hay una antena, por ejemplo, que ya existe de las 46 antenas, que son como ya la vieja tecnología que permite de comunicar a los submarinos de punta a punta, ¿no? Decía del Corno de África a India, pero como de una zona ya super amplia, eso para subrayar como la potencia, pues el MUOS será como mucho más que eso. Discorso della la domanda è: perché questa corsa verso questo tipo di sviluppo tecnologico bellico? Cioè, okay. No, la pregunta es entonces, ¿por qué este desarrollo tecnológico? Se me olvidó decir antes, pero ya se había recordado con Eduardo también que servirá a pilotar los drones. La risposta a questa domanda è che, a quanto pare, da come gli Stati Uniti in questo periodo storico perdono potere economico nei confronti di potenze che entrano sulla scena mondiale con modelli capitalisti diversi rispetto a quelli proposti con la guerra dagli Stati Uniti, parlo della Cina soprattutto. Quindi mentre il potere economico diminuisce, la risposta degli Stati Uniti è di aumentare il potere militare. L'evidenza di questo discorso non sta solo nella costruzione delle quattro basi del MUOS, ma anche dello scudo spaziale che è già preventivato, già funzionante, in difesa, che non è mai difesa, per un eventuale attacco, no, della Russia. Inoltre si sa come le truppe navali che erano nell'Oceano Indiano sono già state spostate verso la Cina, con i missili, altre verso puntate con i missili verso l'Iran. Questo significa che è come se si stanno preparando a una guerra e che questa guerra in realtà è più imminente di quello che crediamo. E questo cosa ci dice? Ci dice che queste merde non se ne andranno da questo mondo, se perdono davvero questo tipo di potere economico, se non prima avendo distrutto tutto con la loro guerra. Entonces, claro, la respuesta a la pregunta por qué correr tanto detrás de la innovación tecnológica es que en un momento en que Estados Unidos está perdiendo su poder económico, en una realidad que presenta cada vez más diferentes tipos de modelos capitalísticos, y nos referimos a la China, pues a la pérdida de poder económico, pues Estados Unidos necesita pues recorrer una fuerza militar cada vez más aplastante. Y de hecho, si miramos los misiles puntados hacia Irán, más que los ataques, no los ataques, pero los dispositivos de defensa que luego serán de ataque hacia China o otras realidades, más que además de no sé, el escudo espacial y etcétera, estamos viendo como Estados Unidos se prepara a una guerra, o las potencias occidentales juntas se preparan a una guerra que es mucho más inminente probablemente de lo que pensamos, y que de todas formas ellos no dejarán su dominio sin haber antes destruido todo. Per cui il discorso MUOS rispetto alla prospettiva di guerra, cioè, si integra, ma è solo una parte, magari una grossa parte, ma comunque è solo una parte. Il MUOS, per cui in realtà, ritornando al discorso di prima, ancora di più ha senso, detto questo, riprodurre lotte antimilitariste, cercando anche di creare una rete antimilitarista. In realtà dobbiamo iniziare a crearci una prospettiva di questo tipo. Entonces, frente a esto es aún más importante para nosotros relanzar la lucha antimilitarista y cada vez más hacer redes para eso. In pratica il MUOS è la punta di diamante di quelle sperimentazioni che sono state compiute con ARP. ARP è stato la fase preliminare per la realizzazione dei progetti come le antenne NRTF che servono per la trasmissione alle navi. Ma siccome i dati sono visibili a occhio nudo, perché comunque le scie chimiche che sono state si sono intensificate, ma non per il traffico aereo, perché in quella zona ce n'è poco comunque a Niscemi, no? Ma perché negli ultimi anni, con l'aumento di questa tecnologia e con la previsione di questo MUOS, chi è stato in quel territorio, per esempio, ha notato un elevarsi della presenza di scie chimiche nell'aria. Questo sicuramente ha comportato, perché a memoria d'uomo, a memoria di essere umano, si nota la differenza climatica dagli anni 90 a ora, e di come solo visivamente ma non scientificamente si stiano comportandosi questi fenomeni atmosferici. Per esempio le precipitazioni avvengono molto più meno frequentemente e a livello molto più torrenziale. Una di queste cause a livello di ricaduta sono la scomparsa, per esempio, di alcune specie migratorie che dall'Africa vengono verso l'Europa. Quindi queste scie chimiche, queste onde elettromagnetiche danno fastidio, per esempio, anche agli sciami d'api per orientarsi nel territorio, e anche e soprattutto agli uccelli che vengono dall'Africa venendo verso l'Italia. Que la instalación del MUOS es como la punta del diamante dell'ARP, que es un sistema militar que ya se avalía de las antenas, que digamos, porque quiero añadir una cosa, el MUOS es capaz de penetrar la ionosfera. Entonces es capaz de hacer el MOS, aunque todavía no es, digamos, oficializado, pero entra podría ya todas las potencialidades de entrar a ser parte de dell'ARPO, que es este proyecto también de guerra climatológica, ¿no? La posibilidad de causar un terremoto, más que un maremoto, más que un diluvio, que parece futurista, pero está como en la página de Defensa Americana se encuentra este proyecto, o sea, la posibilidad de controlar los agentes atmosféricos para crear destrucciones de tipología natural, pero que en vez de ser naturales serán causadas por estas instalaciones de guerra. Encima, desde los años 90, en que han aparecido las construcciones militares, vemos como también en los cielos de Niscemi han aumentado, yo no sé cómo se dice aquí en castellano, pero son la scia química, son aviones que cuando vuelan más bajo que los aviones normales y dejan una vía de rastro, dejan un rastro así en el aire que yo no sé ahora bien técnicamente cómo funciona, pero que permite de condensar las nubes o de disolverlas, y entonces se ve como a veces a raíz de estas de este rastro se van formando nubes muy grandes y hay como lluvias muy torrenciales, se huele también el aire, huele raro, y hay veces que a raíz de estos rastros como que desaparecen todas las nubes alrededor, porque son como elementos químicos que yo ahora no sé explicar, que o bien condensan o bien disuelven la humedad. En el aire. Además, como se ha visto como muchos flujos migratorios, porque claro, a Sicilia llegan y pasan muchos flujos migratorios de aves y de pájaros que vienen de África, y pues están cambiando ruta, así como las abejas están como enloquecidas y están desapareciendo un montón. O sea, claro, los bichos, los insectos, las aves son como súper sensibles a las ondas electromagnéticas, más a... Y a nivel climatológico, pues desde los años 90 a hoy la población de Niscemi nota como hay un cambio climático muy fuerte y hay como lluvias mucho menos frecuentes, pero muy torrenciales. O sea, cuando llueve, llueve súper fuerte y luego no llueve por mucho tiempo. Ah, sí, Angela dice que también cuando se nota, ¿no? Es impactante porque cuando llegan los pájaros es como que llegan a las redes y se paran como, y vuelven atrás. Es como que vienen empujados hacia atrás por todo el electromagnetismo. Pero de hecho, nosotras mismas, cuando con el tiempo es como que te acostumbras, pero cuando llegas al presidio que está muy cerca de las bases y de las antenas, eso ya lo estoy diciendo yo, se nota un mogollón, ¿no? Se nota, te duele la cabeza, es como si estuvieses hablando al teléfono todo el rato, ¿no? Es como no puedes dormir, estás muy nerviosa, los perros igual, cuando llegan a los primeros días están como súper enloquecidos, mucha sed, estás muy cansada, pero no puedes dormir. A mí me pasó las primeras dos semanas como no puedes dormir, o sea, lo notas. Sí, no, cuando llegas lo notas. Luego lamentablemente te acostumbras, porque no es bueno tampoco, pero eso. O sea, como que los efectos de estas ondas son como súper, súper claros. Che hai un medico, sì. che hai un medico, un compagno marino che stavo yendo all'ospediatra de Niscemi mirando la casistica de niños y niñas enfermas y aún si no existe un seguimiento a la casistica, pues cada pediatra tiene mediamente 7 niños y niñas enfermas de leucemia, ¿no? Que por lo que es la población de Niscemi es un montón. Io mi chiamo Angela e volevo dire una delle precisazioni che non sono state dette, cioè che il MUOS è la quarta, cioè esistono 4 stazioni MUOS al mondo, in tutto il mondo, 3 in aree quasi semidesertiche e una che è Niscemi in mezzo alla popolazione, che appunto servono per il controllo militare globale. E a proposito degli effetti che si creano, che crea, abbiamo notato come stando in presidio, arrivata una certa ora in alcune sere praticamente calava di botto, di colpo, una nebbia e si sentivano dei rumori interrotti provenienti dalla base e poi dopo alcune ore scomparivano i rumori e scompariva automaticamente la nebbia. E noi pensiamo che il pericolo reale non sta in quello che c'è sopra la sugherete, quindi il MUOS e le 46 antenne che già sono ad alto potenziale, ad alto pericolo, ma quello che c'è sotto la sugherete che nessuno di noi conosce e che fa molto ma molto paura, perché riguarda proprio la militarizzazione, la sperimentazione militare a livello internazionale. Estando en el presidio se ha notado también como a veces hay una niebla que llega de repente y se acompaña de ruidos de máquinas y muy fuertes que vienen de la base y después de un par de horas desaparecen los ruidos y desaparece la niebla, ¿no? Y de hecho muchas veces nos preguntamos en realidad como que igual así, ¿no? Es como, pero es como a veces decimos, bueno, si lo de las antenas y del MUOS es peligroso, igual lo que hay debajo de la base, que ni siquiera conocemos, puede ser aún más peligroso. De hecho, la gente se acuerda que la conformación geológica del territorio no era así, no era tan colinar como se ve ahora, porque desde los años 50, cuando ya tuvieron cedido el territorio donde ahora crece la base hasta hoy, las obras que han sido hechas, pues la mayoría ni los conocemos, ¿no? Lo que pasa abajo. Y la experimentación militar que ahora se estará llevando ahí adentro y luego será exportada, ¿no?, en todo el mundo, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, que no es solo, no, a nosotros no nos interesan solo nosotras, ¿no? Es como, esto está claro. E un altro aspetto che volevo sottolineare è come a Niscemi, che è un paese appunto che non si è ribellato neanche quando, non ha scioperato, non si è ribellato neanche quando gli hanno tolto l'acqua pubblica, ad esempio adesso invece ritroviamo tutte le donne e tutte le nonne che scendono ogni mattina a fare i blocchi incontro ad Aulmo e che sono sempre lì pronte a schierarsi, non più dalla parte dello Stato, dalla parte dei tutori dell'ordine che sono gli sbirri, ma bensì a tutela della popolazione, e quindi si sta lavorando su quello che è l'autodeterminazione della donna, che nei nostri paesi e soprattutto a Niscemi siamo ancora molto lontani, è una cultura retrograda. E infatti, di conseguenza, infatti, importantissimo è che è nato un comitato delle mamme, comunque delle donne, quindi si sottolinea l'importanza che in Sicilia sta avendo, e soprattutto a Niscemi sta avendo la donna nel movimento, nella lotta in generale e nel movimento non MUOS. Che in una realtà come la di Niscemi, dove la gente no se levantó ni cuando le quitaron el agua, porque en Niscemi hay un problema de agua enorme, no hay agua. porque no se rebeló ni en ese momento, pues ahora se está levantando una movilización que también ve como protagonista a las mujeres de Nishemi, que como mujeres y también como madres y como abuelas se están movilizando mucho en defensa de toda la población, y aunque a veces todavía en esta clave de roles, eso lo estoy diciendo yo, pero como que una movilización de las mujeres en una realidad como la siciliana, que está todavía muy, muy, muy, muy atrasada, pues es como algo que es importante para las mujeres de Nishemi y en general, hacia un proceso de autodeterminación que esperamos que se haga cada vez más fuerte. Y de verdad que las mujeres en el movimiento Lumos están jugando un papel muy importante y estamos contentas. Infatti la mattina ai blocchi di sbirri si ritrovavano di fronte tantissime donne, tantissime mamme che non potevano caricare, e la repressione loro è stata mandare una raffica di multe che adesso dicevano si arriva a 120.000 multe molto salate, ma comunque a parte le multe poi hanno capito che le multe per noi sono solamente carta straccia, per cui hanno iniziato a caricare anche le donne. Infatti abbiamo avuto delle compagne e delle mamme, mamme compagne che sono state strattonate e buttate a terra e quindi hanno subito violenza da parte delle forze di polizia. Al principio incluso a Clara Lombadaro le gustò encontrarse frente a un bloque de madres y abuelas y de mujeres y cargarlas, porque como que le resultaba más difícil y hasta no, entonces al principio la represión ha sido sobre todo económica con las multas, y ahora estamos como a 120.000 euros de multa. Ya veremos, pero cuando entendieron que para nosotros es papel a tirar, a romper la multa, pues como sí, han empezado a cargar incluso las madres y las abuelas y varias mujeres que han sido cargadas, han sido hospitalizadas, y, aunque sean mujeres mayores o no, o sea, como que no le importó ya nada. Y l'ultima cosa che volevo dire è che è una lotta molto difficile a Nishemi, perché tra gli operai e i tecnici che ogni giorno entrano alla base ci sono purtroppo operai anche niscemesi. E quindi questo diventa ancora più difficile, perché il popolo non stenta, è ostinato ancora, stenta a schierarsi dalla parte della lotta no mus, e questo perché avviene? Perché la Sicilia in generale, penso, è in continuo ricatto politico, nel senso, come si dice? Ricatto politico, perché non essendoci lavoro, non essendoci condizioni di vita, non sapendo creare condizioni di vita autosufficienti, la politica sistematicamente si ripresenta offrendo loro del lavoro, quindi dei soldi, e in questo caso gli operai niscemesi si sentono scendono in ricatto, perché avviene il ricatto perché accettano per i soldi di lavorare, di mantenere la famiglia, accettando una costruzione di una cosa che è altamente rischiosa per la salute, per l'ambiente e per le altre specie. È aún más difícil así llevar a cabo esta lucha en Nishemi, también porque asistimos que muchas veces, o sea, que adentro de los camiones y las máquinas y sí, los camiones que entran adentro de la base, muchas veces hay mismo gente de ahí, de Nishemi, que trabaja como obrero adentro de la base, o que por ejemplo nos vino a hicimos una barricada, pues vinieron obreros, misma gente de Nishemi, que luego incluso llega a actuar represión, aunque sea en el rol de obrero, hacia algo que en realidad o sea, les tendría que interesar, ¿no? Y ella hablaba de un chantaje económico y político, porque en una realidad donde misma nosotros igual no somos capaces de hacernos independientes frente al sistema, pero también donde quien no llega a ponerse igual la reflexión misma de salir del sistema, pues se encuentra en una situación que económicamente es muy difícil, entonces acepta de trabajar por algo que realmente les está destruyendo, ¿no? Les está enfermando, les está matando, matará a otra gente y trabaja para la autodestrucción, ¿no? Es como... Ahora, facciamo le domande, magari, ci torniamo. Si quieres hacer preguntas, igual estaba hablando. Traduzco,